Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, alle 8:22 minuti ce l'abbiamo fatta anche oggi. Eccoci qua. 7 giugno, forse alle 8:32 cominceremo un giorno. Vabbè, comunque, insomma, 7 giugno, santi del giorno. Sì. Nel calendario laico oggi è San Enrico Berlinguer, perché nel 1984 gli prese l'ictus in piazza Padova mentre era un comizio, poi morì 4 giorni dopo. Ma in realtà nel calendario liturgico non c'è credo ancora. Ci sia San Enrico Berlinguer. E non credo ci sarà. Ecco, sa mai, mai dirlo, mondo, nel calendario liturgico mondo. Come ti faccio vedere tutti i giorni c'è di tutto, guarda, quello che è servito a Santa Romana Chiesa, oggi per esempio c'è un San Godescalco dei Derdi, che è un re, pensa, della Sassonia, che voleva convertire la Sassonia, che nel 1100 non era ancora del tutto cristiana, pensa un pochino, ed è re per questo, non perché nella vita abbia, pare che abbia passato a fil di spada parecchie centinaia di persone. Per dirti, il povero Berlinguer, il confronto è un santo vero, secondo me, rispetto a molti altri. Comunque, tra gli altri santi, San Roberto di Usminster, San Coloman, San Valabonso e Sant'Albenzio e San Vistremondo, che sono martiri di Cordova. Tra le cose della giornata da ricordare, nel 1099, prima crociata, inizia oggi l'assedio di Gerusalemme, nel 1929 nasceva Città del Vaticano, i due eventi hanno un certo nesso, per così dire, e nel 1981 Israele spianava con i suoi jet il reattore nucleare iracheno di Osirak. Questo mi pare che siano, ecco, le cose da ricordare della giornata. Ma noi invece parliamo, beh, parliamo sempre del dopo, dopo il voto, no? Ne parliamo ancora per oggi, poi facciamo magari anche noi un po' di pagelle come il Corriere della Sera. Dai, il Corriere della Sera, le pagelle, dai il tuo voto, insomma. Io devo dire che il Corriere della Sera dedica oggi 21 pagine alle elezioni. Sì, cari sì. Colleghi, qualcosa bisogna fare per capire che 21 pagine sono un po' troppe, come, o no? Come ti ho detto, quando ci sono troppi giornalisti bisogna farli scrivere. Allora, il problema è che le imprese editoriali rivelano perché poi non stanno in piedi in questi giorni qua. Però detto questo, la cosa più divertente secondo me sono le pagelle di Giannelli. Perché le pagelle di Giannelli tramite vignette, tramite vignette. E devo dire, sono pagelle salate, perché guarda, 6 meno meno a Fassino, 6 a Giacchette, 8 più all'Appendino, 8 alla Raggi, 8 a Parisi, 5 a Renzi. Cioè, il Corriere della Sera dà ceffoni in faccia alla sinistra con Giannelli, come tutti gli articoli non riescono a dare. Scusate, cari colleghi, ma la sintesi poi è questa. Poi chi l'ha detto che non sono state interessanti queste votazioni del primo turno amministrative? Per esempio, Aldo Maria Biscardi, il nipote di Aldo Biscardi. Sapete quanti voti ha preso? Uno! Che forse sappiamo pure di chi è. Cioè, che poi vuol dire che neanche il nonno l'ha votato, Aldo Biscardi. Che vuoi fare? Peraltro tutti figli di nipoti di, anche a Milano, certo, perché c'erano famiglie importanti a sinistra. Anche il figlio di Cossiga mi ha colpito, 24 voti. Voti. Il figlio dell'ex capo di Stato, Francesco Posso dirti che a me ha colpito anche Roberto Maroni, presidente della Regione Lombardia, che capolista nella sua Varese ha preso 300 preferenze. 300. La sorella di un noto obiettore leghista in lista ha preso 500, cioè ci sono delle cose su cui riflettere. Maroni non si era impegnato probabilmente, però auguri ovviamente a Rita Semino, sindaca di Gavi, 82 anni, ha detto: sono stata dal cardiologo, è tutto a posto. Lunga vita, Gavi, posto tra l'altro fantastico per il vino, buon vino, e come vedi si campa a lungo. Dice, per avere, è andata a avere l'imprimatur dal capo di partito. No, dal cardiologo. Mentre ti dirò che a me il giornale che è piaciuto di più per come ha sortito i suoi servizi, per il brio che ci ha messo e per le sorprese dei titoli e dei pezzi, è la stampa di Molinari. Lo dico da torinese, perché da torinese trattare il voto dell'Appendino, che è la sorpresa, voglio dire, della Raggi, si aspettavano tutti, ma dedicandogli le prime pagine a Torino, la Busiarda, ecco, voglio dire, è una roba. Vedere il pezzo su Fassino a Torino, che non ha detto primo turno, ma insomma sempre il suo 40%, a pagina 9 con il titolo Il corpo più piccolo e con Fassino che dice: insomma, adesso devo fare. Ecco, questa roba, viva il direttore poco colpito, torinese della stampa. Sì. Tra l'altro ha colpito anche questo retroscena, chissà se verrà smentito o no, sempre sulla stampa, di un Renzi che alle 2.32 di notte avrebbe detto ai suoi collaboratori, sapete che è pieno di retroscena, Renzi ai suoi collaboratori, stavolta avrebbe detto però questo, ma perché noi non abbiamo dei candidati giovani e brillanti come quelli, come Virginia Raggi? È l'Appennino, perché Giachetti non è populista come loro, perché esatto. Questo poi è il succo della cosa. Perché non parla delle Olimpiadi? Chi se ne frega se non sappiamo chi le paga? Devi dire che vuoi le Olimpiadi, caro. Allora, questa roba è bellissima, anche perché il Financial Times di oggi, invece, dà una sberlona a Renzi in un suo editoriale e gli dice deve tornare a fare riformista sul serio, perché la tesi è sta diventando populista come quelli che critica. Parla di tagli alle tasse che non servono niente per l'economia. Attenzione, caro Renzi, dice alla fine, perché se diventi populista come i tuoi avversari, la gente sceglie l'originale, non la copia, e quindi sceglie 5 Stelle. Sì, insomma, cioè l'idea è quella. Secondo la stampa, Renzi avrebbe suggerito a Giachetti, avrebbe fatto anche delle critiche, a dire sei stato poco populista in questa campagna. Troppo serio. Troppo serio. Sei smunto. Parli dei problemi della città, dei conti, devi fare forza, diamo l'idea che è tutto pronto, siamo una tavola imbandita, l'Italia ha risolto i suoi problemi. Vabbè. Ecco, che ci siano dei giornali che iniziano a scrivere, è la stampa, tra l'altro, che è un giornale abbastanza serio, ingessato, eccetera. A me devo dire la verità, non è che dispiace. Colpisce. Sì. Per esempio, che ci sia su Milano, sempre sulla stampa, l'intervista a Francesco Micheli, finanziere, che dice: Sala è rimasto imbalsamato nell'Expo e dopo tutta melassa. Insomma, finalmente articoli un po' con qualche critica. Ecco. Con qualche critica. Allora, intanto vogliamo salutare Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano. Buongiorno, direttore. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Non lo so se Giachetti ha sbagliato, Antonio Padellaro di Roma, quindi insomma lo sguardo soprattutto attento lì, immagino. Non so se Renzi, se Giachetti ha sbagliato perché è poco populista, questa sarebbe la critica che gli ha fatto Renzi. Il resto Renzi ieri ci ha detto che il PD in larga parte d'Italia è 40%, e ha aggiunto nella sua news, nella sua mail, che da Napoli il PD non c'è più nel 2011. Si riscrive la storia, caro mio. Però ha anche detto, insomma, che non hanno vinto. Però dire che dal 2011 non c'è più il PD a Napoli mi giunge nuovo, ma comunque ho riscritto gli appunti che avevo da parte. Padellaro ha sbagliato in questo, Giachetti, troppo poco populista per ora. Intanto vorrei capire cosa intende per populista Renzi, perché poi è un'espressione di quelle generiche che significano tutto e il contrario di tutto. Ma che vuol dire populista? Perché se uno si presenta alla cittadinanza romana, che è la più, diciamo, imbestialita in tutta Italia, no? Se uno viene a Roma, ti mordono gli elettori, non, e uno gli va a dire facciamo le Olimpiadi, distribuiamo, sì. Non so. Nel pezzo della stampa è chiaro che significa promettere fregandosene di chi paga, sì, più o meno. Questo io spero, devo dire con tutto il rispetto per i colleghi della stampa, spero che Renzi questa fesseria non l'abbia detta, esatto. Perché in una città come Roma venire a fare delle promesse dopo che è successo quello che è successo, cioè una città devastata dalla incapacità, dall'inettitudine, dalle mafie e anche dalle promesse del balle che sono state sparate in questi anni, andare ancora a caricare con promesse che sarebbe stato un suicidio. Sì. Devo dire che da questo punto di vista Giachetti, che certamente non è un fulmine di guerra, si presenta anche sempre con quest'aria un po' dimessa, no? Però se sempre... questa è la critica, è un merito. Ecco. Esatto, è un merito. Io penso che Giachetti sia una persona seria, forse non riuscirà a diventare sindaco di Roma, perché credo che sia abbastanza difficile. Non è che vinci il ballottaggio se cominci a spararle, a spararle grosse. Quindi spero che non l'abbia detta, che non abbia detto Renzi detto questa cosa. E che Renzi stia con poco di piedi per terra, perché in questo momento Renzi deve valutare una crisi, della sua immagine, del suo personaggio, perché non è più il Renzi della vittoria, della straordinaria vittoria il 40%. Del 40% dell'Europea, non lo è più. Padellaro, tra l'altro, si discuteva appunto di questo retroscena secondo la stampa, lo dico per il nuovo ospite che ci ha raggiunto, che è Alessandro Sallusti, direttore del Giornale. Ciao direttore, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Sulla stampa c'è scritto che secondo Renzi Giachetti avrebbe sbagliato a fare una campagna poco populista in questo primo. Ecco, diceva Padellaro, in crisi la figura di Renzi. Il titolo oggi del Giornale è "Affonda il sogno di Renzi". Forse Sallusti così è un po' esagerato, però è quello che desiderate, insomma, al Giornale. Però c'è crisi nella figura del Presidente del Consiglio, secondo te? Beh, questo sì. Rispetto a Giachetti, io credo che tra l'originale e l'imitazione la gente sceglie l'originale, per cui che un dirigente del PD si metta a fare il populista, come dire, non distrae da Grillo, non distrae da Salvini, non distrae dalla Meloni, che sono i populisti. Quindi secondo me fa bene a non mettersi in quella scia. Per quanto riguarda Renzi, io dico finisce il sogno di Renzi, perché ieri, oltre una serie di cose, si è dimostrato che il patto del Nazareno può esistere in Parlamento, può esistere nelle segreterie politiche, può esistere negli inciuci o negli accordi di palazzo, non può esistere nell'elettorato. Non esiste un elettorato che mette assieme pezzi del PD, pezzi di centro, pezzi transfughi di Forza Italia. Il fatto che Verdini e Alfano non solo non abbiano portato un voto al PD, ma addirittura che ne abbiano fatto perdere, secondo alcuni analisti dei flussi elettorali, significa che quella cosa lì esiste nella testa di Renzi, ma non esiste nella testa della gente. Ieri sera a un talk Bianca Berlinguer, direttrice di TG3, sosteneva con ragionevole certezza, insomma, la sua convinzione che molti elettori del primo turno, laddove non hanno candidato in ballottaggio al secondo turno, come a Roma, preferiranno il candidato della sinistra piuttosto che quello dei 5 Stelle, o annullare la scheda o non andare a votare. Che pensa Sallusti? Ma stare nella testa degli elettori, noi che commentiamo e guardiamo spesso, più delle volte non capiamo nulla di quello che c'è nella testa degli elettori. Viva la sincerità, sono d'accordo. io dico che molti elettori di centrodestra, nel senso di leghisti o di preferiscono sicuramente dare il proprio voto a Grillo che non darlo alla sinistra. Questo sono d'accordo. Probabilmente c'è qualche moderato di centrodestra che per paura di Grillo, credo che la maggior parte, secondo me, non andrà a votare. E altri non magari si sparpaglieranno. Degli altri si sparpaglieranno, vero, ma non in maniera decisiva. È vero quello che dite, Berlusconi dice a Roma votare scheda bianca, perché Berlusconi non ha parlato ufficialmente ieri. Cioè, questa sì, a me risulta che lui, non so se sarà un'indicazione ufficiale o se sarà così un passaparola, credo che debba dire scheda bianca, perché Berlusconi non può sostenere l'astensionismo, ovviamente, perché deve essere coerente col fatto che non ci si deve astenere, e quindi, non potendo o non volendo schierarsi, dice votate scheda bianca. Ma credo che, come dire, ognuno voterà in coscienza, o più probabilmente non voterà in coscienza. Sallusti, domanda sul centrodestra, perché il Giornale oggi è un po' una guida per chi vuole orizzontarsi sulle reazioni. No, perché da come avete fatto i titoli si capiscono molte cose. Allora, c'è il titolo su Salvini che dice mezzo passo falso sulla leadership. C'è il titolo di Meloni che gli riconosce il successo a Roma, ma dice solo a Roma. E naturalmente si dice no, però Forza Italia vale ancora tantissimo, il più della coalizione, anche se anche per Forza Italia c'è il successo a Milano che doppia la Lega nella, insomma, capitale della Lombardia, ma in parecchie grandi città a percentuali bassissime, se uno va a vedere tra Roma, Torino, eccetera, eccetera, è così. Allora, come si mette questa partita? Lo chiedo al giornalista, non al politico, come ovvio non lo sei, però, perché questi tre pezzi non sono andati molto bene. Ma come si ricomporrà? Non lo so. Noi facciamo queste tre osservazioni. La Meloni, Meloni e Salvini hanno provato a vedere l'effetto che fa andare da soli senza senza tra i piedi Berlusconi e Forza Italia, e hanno scelto una roccaforte di uno dei due, cioè a Roma. È stata una cosa che ha avuto un grande successo personale. La Meloni ha fatto veramente un mezzo miracolo, perché da sola, mani nude, raccogliere il 20% è sicuramente chapeau. Però si è dimostrata nello stesso tempo anche l'inutilità politica. Cioè è successo quello che è successo in Francia con la Le Pen e in Austria con il leader del nazionalista. Cioè, un grande, però significa che bisogna smettere coi toni estremi. Per Salvini è complicato, però io che sono abbastanza d'accordo con quello che dici, vederlo smetterla coi toni estremi è un po' come... La Meloni non lo so, ma per Salvini è un problema serio. Adesso dice che fa la Leopolda, vedremo. Ma sì, ma mi sa che è un po' tardi per... Io gli auguro di no, ma mi sa che è un po' tardi, anche perché la Lega, insomma, si è dimostrato nei fatti ancora una volta, cioè non nell'analisi politica, ma nei fatti, che il partito leader di quella coalizione dal punto di vista numerico è Forza Italia. Quindi non solo in quanto moderati, per cui ago di equilibrio tra le diverse componenti, ma anche dal punto di vista numerico, al momento la leadership tocca ancora Forza Italia, non so. Almeno a Milano, anche se alcuni imputano proprio l'errore a Berlusconi di Roma. Noi abbiamo fatto il conto a livello nazionale, Forza Italia rappresenta ancora, mettendo assieme, so che nelle amministrative non ha un valore scientifico, per carità di Dio, ma insomma, volendo andare tanto al chilo, Forza Italia rappresenta ancora più del 60% della coalizione. Sentiamo Padellaro, uno sguardo sul centrodestra e su Berlusconi da una persona che è sempre stato critico di Berlusconi. Ieri Ferruccio De Bortoli ci ha detto: è la prima volta in cui si dimostra, in cui Berlusconi non solo non porta voti, ma anzi rischia di appesantire, di fare l'abbraccio della morte, no? Al candidato che abbraccia. Ma... è davvero così? Dunque, sì, in qualche caso è stato così, perché a Roma, ma Roma è una situazione particolare, Martini certamente non è stato avvantaggiato dall'abbraccio di Berlusconi, anche perché lì c'è stata molta confusione. Però vorrei dire che se Sallusti ha ragione dal punto di vista numerico, cioè Forza Italia oggi, stando ai risultati elettorali, ancora la forza prevalente del centrodestra, dobbiamo guardare un po' in prospettiva, ed è inevitabile, anche per ragioni anagrafiche, che in prospettiva Salvini, Meloni siano, non dico il futuro del centrodestra, ma dei riferimenti più forti di quelli di Berlusconi. Quindi anche se però Antonio, la lezione di Milano è che in realtà vanno molto meglio di quanto non ci si aspettasse in base ai loro partiti, se prendono uno estraneo ed esterno ai loro giochi, alle loro tradizioni, è capace di parlare un linguaggio diverso da loro, come Parisi. Sì, Parisi rappresenta, infatti, noi stiamo parlando di Berlusconi, infatti Parisi è la dimostrazione che un ricambio anche generazionale, ma anche di tipologia politica come Parisi può funzionare. Ho l'impressione che Berlusconi sarà sempre di più destinato a fare, come dire, il padre nobile del centrodestra, ma che le candidature forti debbano emergere appunto dalla società civile, come si dice nel caso di Parisi, e che il centrodestra dei moderati andrà in quella direzione. Poi ci sarà un centrodestra, o meglio una destra, chiamiamola come vogliamo, estrema, radicale, eccetera, che ha inevitabilmente in Salvini e nella Meloni i riferimenti. Qual è il problema? Che questi due pezzi difficilmente possono convivere, perché possono convivere in situazioni locali, diciamo, delle amministrative, come per esempio a Milano, ma sono visioni della società, del futuro, esatto, dei progetti che non stanno insieme. Perché se io sento parlare Parisi, il suo problema non è fare la Brexit dell'Italia, se sento parlare invece Salvini è chi vince esce dall'euro in 5 minuti. E a proposito di dichiarazioni sfumate o no, segnala oggi Giorgia Meloni su Repubblica: Berlusconi purtroppo non è più lucido nella migliore delle ipotesi, non credo gli si possa più affidare alcunché. Questa è Giorgia Meloni. Beh, che ha un po' il dente avvelenato. Si può capire per certi. Noi dobbiamo andare un attimo in pubblicità. Ringraziamo Antonio Padellaro perché ci deve lasciare. Se può stare con noi Alessandro Sallusti ci fa molto piacere, ci sono anche gli ascoltatori. Tra poco all'800 24, così gli chiediamo un'opinione sui voti di Simona Tagli. Sì, di Simona Tagli, va bene, tra poco. Eccoci caro Oscar, ci sono anche gli ascoltatori che ci chiamano. Sandro da Brescia lì da un po', lo ringraziamo. Sandro, buongiorno. Buongiorno. Che dice? Allora, saluto tutti. E no, semplicemente io parlo un po' per il Movimento 5 Stelle, sono un esponente e voglio dire che mi trovo troppa gente che ha ancora il salame sugli occhi, veramente, perché chi non si rende conto che adesso il Movimento 5 Stelle è l'unica realtà che veramente riesce a stare su tutto il territorio e che ha avuto un risultato eclatante, non è realista. Prima si prende coscienza di questo fatto, forse prima si riescono ad analizzare le cose. Chi ha avuto il risultato? Sandro, cioè, non è che ha trionfato ovunque. No, assolutamente, però voglio dire, con dei dati, allora, sempre corso Nazarini, non esiste nessun tipo di compromesso, perché da noi quelle che vengono definite dall'esterno epurazioni sono semplicemente persone che vogliono appunto fare salti della quaglia, vogliono inciuciarsi e non sono parte del movimento. Lei rivendica insomma la purezza del movimento, no? Niente inciuci, niente accordi, niente. È difficile chiaramente correre così. Poi tutte le cose sono pronte, no? Da una parte abbiamo la melassa in cui siamo sempre avvolti, perché quando facciamo qualcosa che va bene, come adesso, se dovessimo vincere a Roma sicuramente c'è pronto il coccodrillo giornalistico, per cui è come la volpe con l'uva, nessuno voleva Roma, no? È sempre così, ma adesso, cioè, secondo me prima si prende atto che è l'unica realtà consolidata veramente che ha dei dati correndo da sola, che non sono... È meglio, questo l'ha già detto. Vabbè, questo insomma è un discorso da un militante, insomma è uno che vota al Movimento 5 Stelle. La ringraziamo Sandro. Vincenzo da Catania, buongiorno Vincenzo. Pronto, buongiorno Mila. Buongiorno, eccoci. Io volevo dare un mio contributo, insomma una visione critica alla situazione. Credo che 5 Stelle vada avanti non perché abbia un progetto, ma perché gli altri partiti non hanno più un progetto. Una volta, io per esempio sono un uomo di centrodestra da sempre, però ti devo dire che oggi avrei votato 5 Stelle a Roma per un semplice motivo: non c'è più centro, non c'è più destra, non c'è più sinistra. Ognuno le spara, ogni mattina spara qualcosa a favore di qualche categoria, cercando di capitare la benevolenza di queste categorie. Quello inventa gli 80 euro, Berlusconi parla della pensione, ma dove sono i progetti? Una volta ci identificavamo, io appartengo al ceto medio, una volta il ceto medio si identificava col centrodestra, ma perché il centrodestra faceva delle battaglie per le categorie. Oggi le battaglie che si combattono sono battaglie che non si capiscono, cioè sono battaglie improvvisate, abbiamo un ciarlatano, io lo reputo, mi dispiace dirlo, Renzi, senza volere scadere nella denuncia, un ciarlatano, perché dice mille cose che nella realtà non esistono. Qua la verità è che 5 Stelle propone l'opposizione e basta, e quindi raccoglie i consensi, perché in verità le proposte degli altri sono ridicole. Ma raccoglie Daniele, il vuoto, però, insomma, degli altri. Se lei parla del popolo del centrodestra, Vincenzo, il popolo del centrodestra è irresponsabile che dopo 20 anni è tutto bloccato nelle leadership. Cioè, non è che l'hanno deciso altri elettori piuttosto che voi. Quindi, sai, Daniele, è inutile che... Ma Vincenzo da Catania. Vincenzo da Catania. Esiste l'opportunità e questi nostri politici, la Meloni, ma che figura è? Ma parliamo seriamente, che poteva andare a amministrare Roma. Qua non c'è più una classe politica, ecco il disamore della gente. Non esiste più una collocazione. Insomma, l'idea del 5 Stelle che raccoglie un po' i cocci degli altri, no? I cocci degli altri, il vuoto degli altri. Il vuoto, allora, ce la mettiamo così, è un merito straordinario, però. Perché, ripeto, vuol dire che gli altri continuano a riproporre leadership sconfitte. E usurate. Poi la Meloni da sola a prendere tutti quei voti, e così ti sembra così poco? Ma non lo so, francamente. Non lo so, Sallusti, c'è questa, il 5 Stelle come forza che propone, quindi è pronta a governare, o come forza di rottura che insomma raccoglie solo dove gli altri hanno seminato disastri? Questo lo vedremo, perché manca la prova contraria. Esatto. Nel senso che Parma e Livorno sono, sì, insomma, sono stati due esperimenti non particolarmente entusiasmanti, però difficile dare un giudizio. Certo, adesso si capirà. Io sono scettico, non per un fatto politico, ma proprio Roma è, credo, la prima azienda italiana, e tra l'altro è un'azienda in default. È come se 15 anni fa, cos'è che era all'inizio degli anni 2000, con la Fiat tecnicamente morta da libri in tribunali, invece che Marchionne fosse arrivato un ragazzino della Bocconi e dice: adesso ci penso io. Non lo so, magari poteva funzionare. Magari ci stupisce, magari c'è Zuckerberg, però, e non ce ne siamo resi conto. Esatto, però non è che quelli della Bocconi finora, per usare sempre la metafora, hanno fatto bene a Roma, no? Allora, adesso li vedremo, sta ragazza brava, simpatica, riesce a comunicare, sarà intelligentissimo, non lo metto in dubbio, ma un conto è se, come facciamo noi, scrivere che tutto fa schifo, un conto andare lì e sistemare, esatto, le cose e mettere le mani, certo. Io temo che lì a suo Roma finirà il sogno della purezza grillina, vedremo, il sogno, sì, certo, quantomeno per risolvere i problemi bisogna sporcarsi le mani, questo ha molto ragione. Però per esempio io il caso di Torino la metto in un altro modo, perché Torino mafia capitale non c'è stata, però a Torino la cosa pazzesca della città è tutti i poteri stanno con Fassino e il PD, cioè tutti, quando dico tutti significa la banca, cioè il San Paolo, la fondazione bancaria CRT, l'università, il Politecnico, tutto il terzo settore, i commercianti, eccetera eccetera. Allora è inevitabile dopo decenni che a un certo punto la gente dice basta, non se ne può più, cioè e i regimi che durano decenni alla fine non ce la fanno più, e quindi nelle periferie eccetera, c'hanno solo il centro. La chiave che unisce, se per vedere il voto Milano, Torino, Roma, è che le roccaforti rosse PD restano solo il centro dove stanno, sì, i ricchissimi, sì, i ricchi, è vero. Tutto il resto esplode, o vai 5 Stelle o va. Ma questo è un esame molto interessante sui giornali, anche per esempio a Milano, Sallusti, il centro, cioè dove vivono le persone più agiate, la borghesia, le persone più ricche anche, vota per i candidati di centrosinistra. Dove ci si sposta man mano nelle periferie, per esempio la Raggi ha fatto il pieno a Ostia, ha fatto a Torpignattà eccetera, c'è, e così anche 50% a Milano il centrodestra, il candidato di centrodestra vince nelle Parisi periferie. Vince, stravince nelle periferie, cioè è uno stravolgimento rispetto a quello che è lo stravolgimento, perché sono le elite finanziarie, è così a Milano, è così, ma a Torino è pazzesco, è tutto il potere da una parte e alla fine chi vuole respirare. Però devo dire, molti hanno criticato anche la lettura di Sallusti, insomma, che ha portato molto a favore di Berlusconi e contro la Lega. Insomma, Sallusti adesso non so se si può dire, ma a Roma è proprio stata la scelta di Berlusconi di appoggiare Marchini, che è stato il cavallo zoppo. No, cioè se avesse appoggiato la Meloni, la Meloni sarebbe al ballottaggio, questo è un dato di fatto. Ma Berlusconi l'ha detto, ha usato anche una frase, credo non particolarmente felice dal punto di vista, ma cosa ha detto? Bisognava dare una punizione a sti ragazzini, una roba del genere. Sì. Lì la Roma il fatto è stato esclusivamente politico, cioè non voleva perdere la leadership. Non voleva perdere tra perdere la leadership del centrodestra e perdere Roma, ha preferito perdere Roma. Sarà stato giusto, sbagliato, non lo so, non tocca a me dirlo, ma non è che è così rimbambito da non capire che convergendo sulla Meloni, la Meloni potrebbe andare al ballottaggio. È ovvio che era così. Però avrebbe perso la leadership del centrodestra, forse per lui e credo anche per il centrodestra meglio perdere Roma. Meglio perdere Roma che perdere la leadership, anche perché a fronte di quello che ha visto a Milano, cioè il doppio dei voti della Lega, può farsi forte di questa cosa qui. Sentiamoci, chiama Ivan proprio da Milano, buongiorno Ivan. Buongiorno a voi tutti, ma intanto io vorrei chiarire una questione sulla questione dei numeri, anche se è abbastanza relativa. Tanto nel 2011 Forza Italia e il PDL in generale presero il 28% rispetto a una Lega che prese il 9,6, quindi la triplicarono, per cui il numero va visto anche in questa proiezione. Sì, la Lega per esempio adesso ha preso l'11,8 a Milano, Lega, quindi ha guadagnato il 2% rispetto... Sì, esattamente. Quindi questo già è un dato, quindi la Lega avanza leggermente, PDL arresta, però comunque Forza Italia. Detto questo, se noi vogliamo guardare al futuro, come ha detto Padellaro, non possiamo pensare a Berlusconi come leader, e altrettanto vero che è sbagliato, assolutamente sbagliato, vedere Salvini, e io lo sento in tante trasmissioni, visto solo come il populista, lo xenofobo, come la destra estrema. Ma chi l'ha detto? Salvini è, secondo me, e secondo, diciamo, buona parte dell'elettorato, la persona che può interpretare una destra moderna, che vuole le regole, che vuole, tante volte vi ho sentito parlare anche Giannino di delle pensioni, del problema delle pensioni, ma se voi ci pensate un attimo, quello che manca in Italia è il lavoro, e l'unica forza che sta proponendo un abbassamento netto delle tasse oggi è la Lega. Propone un abbassamento delle tasse senza toccare la spesa, è uguale alla sinistra. Tale quale. Allora, su questa cosa di fondo non bisogna fare i militanti, bisogna aprire gli occhi. Se si dicono le stesse cose della sinistra, se si dice sia i prepensionamenti, come la sinistra, allora a quel punto uno sceglie la CGIL. Non so se è chiaro. È cosa invece sì. Non è che lo dico. Io non faccio dibattiti politici. Io dico, se uno va a vedere i voti, nei voti, quello che è evidente è che, come sempre, gli elettori scelgono l'originale piuttosto che la copia. Tutto qui. Quindi lei dice è l'unico. Benissimo, io non mi metto io rispetto la sua opinione, l'opinione di tutti. Dico che nel bilancio complessivo della coalizione quei voti sono voti che servono a tenere, però i candidati, come si vede a Milano, parlano un altro linguaggio. Io mi limito a prendere atto, a osservare, a proporre, non è che dico bisogna che facciate così e cosa, siete voi a decidere, per carità. Comunque, grazie Ivan, questa è la lettura. Sallusti, no, ma si parla già come se avesse vinto la Raggi a Roma, come se in realtà c'è il ballottaggio ancora. Cosa potrebbe cambiare davvero? Cioè, nel ballottaggio cosa potrebbe succedere per quel che riguarda i voti di chi ha votato e ora è escluso al ballottaggio e potrebbe dirottarsi da una parte all'altra? Ma io credo che la cosa più possibile non riguardino tanto Roma, dove non credo che si possa creare una mega alleanza di tutti contro la Raggi. Invece penso che si possa creare un'alleanza tutti contro Fassino e tutti contro Merola a Torino e a Bologna. Però si vocifera anche quello a Roma, cioè appunto la riedizione del patto del Nazareno, cioè che Berlusconi, pur di non darla al 5 Stelle, faccia convergere magari su Giachetti. Cioè la tesi della Bianca Berlinguer ieri sera. Insomma, preferisca Giachetti alla Raggi. Beh, ma allora lì diventerebbe molto complicato, perché allora bisognerebbe presumere che Renzi sacrifichi Sala a Milano, perché se io ti do tu mi dai Parisi, no? Perché sennò non capisco lo scambio. Poi a quel punto significa dire che ha ragione Alfano fin dal primo giorno, lo dico con un po' di ironia. Vi invito, cari colleghi, a riflettere su questo. Oggi il Corriere dedica 21 pagine, capisco, alle elezioni. Tra l'altro l'unico che dà... alla sinistra PD, cioè l'unico che ti fa sentire persone che dice c'è un problema gigantesco al PD, ma detto questo, nessun giornale italiano dà rilievo alla sentenza della Corte Costituzionale che dice ai comuni, i governi da Monti in poi hanno levato 7 miliardi e mezzo ed è incostituzionale. Allora, tentiamo di tornare un po' nelle palle su Italia della Oggi, su Italia Oggi. Sì. Però per la gente che sta nei comuni, sapere che la Corte Costituzionale ha bocciato 3 anni di manovra di tagli ai comuni, forse era il caso di sottolinearlo. Per chiudere, ce l'abbiamo invece Corrado, il candidato del Movimento 5 Stelle, che lui invece ha le idee chiare su cosa farà il ballottaggio. Ha preso il 10%, voterà Sala o Parisi? Corrado, per chi voterà al prossimo turno? Lei come ha risposto? Allora, io non voterò, o meglio, mi recherò al seggio e annullerò la mia scheda. O scrivo il nome di Beppe Grillo, o il mio, o faccio un disegnino. Il disegnino, Sallusti, il disegnino farà Corrado, non lo so. Sallusti, ma chi vince a Milano? Appunto, pronostico, Sallusti vince, è candidato. È difficile, io spero Parisi. Però oltre alla speranza c'è il fatto che siccome siamo di fronte a un'inversione di trend, cioè Parisi è quasi un mese che sta salendo e Sala è un mese che piano piano perde, io credo che anche dal punto di vista dei raffronti col passato che i trend non si invertono durante la settimana del ballottaggio, per cui vedo favorito Parisi. Va bene, Parisi. Staremo a vedere, intanto ci dobbiamo salutare, a domani.